Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Il primo argomento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre ci porta a parlare di consumi alimentari che sono tornati ai livelli del 1982. L'Italia vinceva i mondiali di calcio, ma eravamo in una situazione economica molto difficile. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, siamo tornati indietro invece di andare avanti. Eh sì, certamente un dato significativo, perché tornare indietro di tutti questi anni veramente fa capire l'enormità della difficoltà con cui il nostro paese si trova, ma addirittura tornare all'epoca dei mondiali dell'82 certamente è un dato che fa veramente riflettere, e non riguarda solamente il crollo degli acquisti dei generi alimentari, ma anche di quello che sono il potere d'acquisto delle paghe e il numero dei contratti che ad oggi aspettano ancora di dover essere rinnovati. Una situazione che certamente non dà buone speranze, ma che ci auguriamo almeno di aver toccato il fondo. Si vendono meno alimentari anche nei discount, dove magari le cose costano meno? Normalmente i discount riuscivano sempre a sostenersi positivamente in questo periodo di crisi, perché sappiamo che i discount normalmente sono organizzati in una maniera diversa rispetto a quei prodotti e quelle catene tradizionali, vendendo proprio una serie di articoli che normalmente costano meno, che si trovano solamente lì rispetto alle grandi distribuzioni, ma invece questa volta anche loro sono stati coinvolti in questo dato, e certamente anche noi lo prendiamo con grande perplessità, perché se la grande distribuzione è in crisi, se i centri commerciali continuano a aprire, segnalano comunque un calo anche loro, e i negozianti, i supermercati tradizionali sono quelli che hanno il maggior crollo dei 2,6,8%, certamente il fatto che anche i discount peggiorano fa capire come strategie per arrivare a fine mese o contenere le spese veramente si stanno esaurendo tutte. Dunque si compra sicuramente meno rispetto al passato, è anche detto o si può dire che questa diminuzione di acquisti sia fatta meglio, cioè sia più intelligente, o effettivamente si rinuncia magari anche all'essenziale? Guarda, io andrei per cercare di rispondere su quelli che sono i dati che l'Istat ha diffuso, e magari qui anche riusciamo a capire un po' gli orientamenti che le persone hanno, perché addirittura risulta che l'informatica, le telecomunicazioni e la telefonia hanno avuto addirittura una regressione di meno 4,8%, che normalmente erano sempre comparti che in questa fase si difendevano sempre molto bene. Invece positivo abbiamo gli articoli in cuoio, i viaggi e soprattutto l'utensileria per la casa e ferramenta. Per quanto riguarda i regressi, li abbiamo addirittura sui prodotti farmaceutici. Chiaramente i prodotti tessili e l'arredamento segnano un meno 3,2%, e i mobili. Quindi questa certamente è un quadro che fanno capire anche quelli che sono i settori propensi, mentre la caduta maggiore l'abbiamo sulla grande distribuzione, meno 5,1%, e i discount, anche se lieve rispetto alla grande distribuzione, hanno segnato anche loro meno 1,5%. Diciamo che solo Pasqua è uscito un pochino a dare un'inversione di tendenza, ma certamente oggi parlare di strategie è molto difficile, anche se abbiamo detto che ormai le persone cercano di muoversi e fare la spesa dove c'è la possibilità di inseguire le promozioni e le offerte, perché oggi sono le uniche cose che sostanzialmente attirano un po' i consumatori. Questi sono dati riferiti appunto ai primi 4 mesi, quindi con aprile, visto che hai citato Pasqua. Quest'anno Pasqua è caduta in aprile. Sarebbe interessante, Carlo, ma lo faremo casomai il mese prossimo, nei mesi prossimi, vedere se con questo mese di maggio, in cui ci sono i famosi 80 euro in più, magari qualcosina cambia. Ah, certo, questa sicuramente sarà un'analisi molto curiosa da fare. Certamente non sarà una cifra che potrà cambiare la vita, ma magari una boccata di ossigeno la potrà dare ai consumatori, anche se chiaramente dobbiamo ricordarci che sul tavolo c'è la famosa TASI, che con sempre più preoccupazioni stanno dando alle famiglie, perché se da una parte danno, dall'altra con il braccio tolgono, però certamente 80 euro, anche in virtù del fatto che l'inverno è finito, non si consuma più per riscaldarsi, dovrebbe comportare qualche soldino in più nel portafoglio delle famiglie. Ma poi un dato molto importante, oltre al settore alimentare, quello che l'Istat ha fatto emergere in questi 4 mesi dell'anno, è come la crescita degli stipendi è sempre più fiacca, addirittura la variazione più bassa negli ultimi 32 anni, quindi parliamo di una generazione che ha coinvolto un sacco di persone, di cui comunque si torna indietro di tantissimi anni, addirittura in questo caso di decenni. E quello che è il dato che più mi sbalordisce è come addirittura il 61,6% dei dipendenti è in attesa di rinnovo. Quindi se da un lato parliamo di 80 euro, da un altro lato non ci sono stati i rinnovi contrattuali dei dipendenti, e questo fa capire come sostanzialmente questi 80 euro sono stati sì no una compensazione di quelle che dovrebbero essere delle lecite spettanze. Aggiungendo poi il fatto che se si compra meno nei negozi, li hai detti tu prima, insomma, riportati i dati negativi in tutti i settori, grandi e piccoli, chiaramente il grande in qualche modo regge perché compensa sul distribuendo la perdita su più sedi, ma i negozi piccoli sono quelli che muoiono per primi. Certamente, io dirò anche un'altra cosa. Poche settimane fa abbiamo fatto come Adico un censimento su quelle che erano un po' le principali città del Veneto, abbiamo confrontato anche Treviso con Padova, con Mestre e anche Venezia, che vabbè è diversa per definizione, abbiamo notato come ormai nei centri delle città ormai ci sono solite marche note che vendono sostanzialmente in franchising. Oggi che vai su qualsiasi città trovi ormai famose note marche, non so, a Calzedonia, a Maracamice, Nero Giardini, troviamo a Benetton, Latte Zenis, Yamamei, cioè ormai troviamo sempre i stessi negozi ovunque dove andiamo, quindi questo certamente mette in ginocchio il piccolo commerciante, che oltre a non poter contenere quella che è una politica dei prezzi non può pensare o con difficoltà riuscire a farlo, contrastarsi, quelli sono anche orari di lavoro in cui queste catene ormai si propongono alle persone 7 giorni su 7 fino alla sera. Situazione dunque difficile in questo settore. Tra 2 giorni invece parliamo di una notizia positiva, parliamo di ferrovie, non è uno scherzo, parliamo di ferrovie in modo positivo perché ci sono novità importanti. Intanto grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.